A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Paese a buon porto, nei vari cittadini che mettono fuori davanti a casa la roba e... Ci sono tutti i mobili danneggiati dall'alluvione? Sì, certo. La maggior parte sono armadi, roba di legno... Vedo anche un materasso... Sì, beh, tutta roba che diciamo è stata danneggiata dal terremoto. Sono materassi, reti, armadi, frigoriferi, lavatrici, tutte cose così. In questo momento le nostre strade sono delle discariche, tutto il nostro... La nostra vita è tutto sul marciapiede. Chi aveva solo il piano terra ha perso tutto e molti hanno perso sia la casa che il lavoro. Persone che abitano a San Matteo hanno denunciato già 2 anni fa lo stato di degrado dell'argine. Oltretutto un tratto di argine rettilineo dove sono stati fatti dei lavori importanti come l'alta velocità, il metanodotto, quindi era una cosa ben nota, era solo una tragedia annunciata. Sedie accatastate, ora armadi e materassi, più in là i resti di un salotto. La vita passata degli abitanti di Bonporto e di Bastiglia, ora la vedi sui marciapiedi, coperti di fango, poi di polvere, e sì, ad un certo punto è scesa pure la neve a rendere tutto bianco. I danni sono stati però solo per un po' nascosti. I danni di un'alluvione, quella del 19 gennaio, che fuori dalla bassa bodenese ha fatto forse poco rumore, anche se è costata la vita di un uomo, ma che ha ferito un territorio già piegato dal terremoto. Un'alluvione che era davvero un disastro previsto, come lamenta la gente da queste parti? Un'alluvione che davvero si poteva evitare? Al contrario del terremoto con cui, con un lapsus talvolta, ora viene pure confusa ed identificata? Di sicuro, più volte chi abita lungo il Secchia, che non è tra l'altro il fiume più vicino a questi paesi, ha segnalato e denunciato lo stato degli argini e per questo ora è ancora più arrabbiato e si sente ancora più insicuro, come ammette la signora Franca Barbanti, che abita vicino al fiume e ha un terreno proprio dentro l'argine. Abbiamo segnalato anche con anche foto dove facevano vedere che c'erano tutti questi tronchi che attraversavano il fiume. E poi diciamo questi buchi che ci sono nell'argine, quindi dei buchi nell'argine ben visibili per tutti. Ecco, voi queste segnalazioni quanto tempo fa le avete fatte? Saranno 2 anni, minimo 2-3 anni. E le avete fatte più volte, una sola volta, la situazione è rimasta sempre la stessa? Noi poi ne abbiamo parlato, perché io sono iscritta ai coltivatori diretti della CIA qui di Modena, ne abbiamo parlato anche con loro, però sì, non ti ascolta nessuno, nel senso dice ma l'abbiamo fatto presente, però non si fa vedere mai nessuno. Però adesso la situazione è ben diversa. Cioè, adesso hanno tamponato questo punto, però l'argine è un gruviere, parola giusta, è tutta un buco, eh. Ma a voi che rabbia fa il fatto di aver segnalato? Guardi, vorrei morire. Io ho 1,70 m di acqua in casa, lascio pensare a lei come essere la mia casa. Siamo stati gli ultimi a andar via l'acqua, siamo stati 7 giorni nell'acqua, 7 giorni precisi, tutto da buttare, tutto. Negli anni sono aumentate, sono arrivate da più parti le segnalazioni sullo stato degli argini del fiume, che ora sono diventate allegati all'esposto per la procura, che ha aperto un'indagine sull'alluvione. Un'indagine complessa, proprio come quella del terremoto, ha già chiarito il procuratore aggiunto Lucia Musti. Un'indagine che procede parallela a quella degli alluvionati, che in un comitato preparano pure una class action e parlano attraverso la voce di Manuela Gibertone. Nel nostro comitato hanno aderito delle persone che appunto abitano vicino agli argini e che avevano già fatto delle denunce a suo tempo circa lo stato di manutenzione degli argini, quindi era una situazione che era già segnalata. Sono diverse, sì. Ci sono tutte le abitazioni del piano terra che sono completamente inagibili. In poche ore se ne sono andati arredamenti, cioè ricordi di una vita, le case sono completamente inutilizzabili, ma anche tutte le attività commerciali del piano terra. Chiediamo che ci sia un responsabile per questi argini, perché c'è l'AIPO. ce l'hai. Poi adesso noi abbiamo incaricato con il nostro comitato, ci sono degli avvocati, dei professionisti, degli ingegneri idraulici che lavorano per noi, perché appunto emerge il responsabile di queste situazioni. C'è stato un territorio già terremotato nel 2012, il 31 gennaio scadevano le pratiche di rimborso del terremoto, ad oggi abbiamo finanziato con le nostre tasche tutti i danni del terremoto e già dobbiamo tirar fuori altri soldi per sopperire ai danni dell'alluvione, mi sembra un po' eccessivo. La trovi dappertutto, la rabbia della bassa modenese, proprio come il fango. Rabbia per un disastro che ha lasciato senza casa e talvolta senza lavoro decine e decine di famiglie. Un disastro che è stato davvero colpa delle nutrie, come dall'AIPO è stato all'inizio detto, eppure anche questo non rientrerebbe tra i compiti dei vari consorzi di bonifica e poi dello stesso AIPO a cui gli imprenditori versano ogni anno migliaia di euro. Mostra il segno lasciato dall'acqua sul muro e contemporaneamente mostra la ricevuta del pagamento della propria quota al consorzio bonifiche Tommaso De Marco, presidente della East Balt, dal cui pane dipendono i 400 McDonald's d'Italia. L'alluvione silenziosa di Modena ha rischiato di arrivare fin lì. Tra i danni diretti e indiretti noi pensiamo di avere sui 500.000 euro di danni. 5 giorni di fermo e da qui, da questo stabilimento, dipende anche proprio la produzione, l'attività dei 400 McDonald's d'Italia, perché voi qui producete tra l'altro anche i panini del McDonald's, quindi qui si lavora a ritmo continuo. Sì, qua si lavora 24 ore su 24 e solitamente 6 giorni è quando c'è una necessità 7 giorni su 7, quindi noi mentre è arrivata l'alluvione stavamo lavorando. C'è stato il rischio di dover fermare i McDonald's d'Italia per colpa dell'alluvione del Secchia. Se non ci fosse stato il contingency plan, cioè il piano di emergenza e quindi il supporto dei panifici europei, sicuramente avremmo lasciato i ristoranti senza pane, perché abbiamo fatto il piano di emergenza, quindi al giorno successivo il pane è arrivato dalla Francia e dalla Germania. Questa alluvione ha fatto arrabbiare tutti, perché è stato un altro duro colpo dopo il terremoto, ma perché è stato un colpo che forse si poteva evitare. Sì, non era la piovosità del periodo che ha causato. Riteniamo, o almeno io ritengo, che sia più dovuto a carenza di manutenzione e carenza di verifica dello stato della zona. E questo è un lavoro che deve essere fatto in continuazione e un piccolo incidente può causare dei danni incredibili e delle conseguenze veramente importanti. Conseguenze significative, perché appunto se voi siete una realtà abbastanza grande, ci sono imprenditori medio piccoli, commercianti che sono in grossissima difficoltà, soprattutto quelli che erano stati anche già colpiti pesantemente dal terremoto, eppure tutti diciamo concorrete finanziariamente alla manutenzione dei fiumi attraverso le vostre quote del consorzio di bonifica. Certo, noi paghiamo regolarmente tutte le quote che servono per fare manutenzione e gestire questo problema. Non sono neanche tanto basso. Quanto pagate? Certo, noi paghiamo 3.800 euro all'anno per 10.000 metri quadri di superficie di terreno, insomma, ma oltre a quello paghiamo un sacco di altre tasse, quindi noi contribuiamo al territorio per far sì che tutto venga tenuto in funzione, e queste conseguenze sono veramente molto dure per un'azienda da accettare. È un'altra triste storia italiana, quella dell'alluvione nella bassa modenese. Storia di allarmi passati, burocrazie recenti, storia di pluralità di uffici come ora di polemiche. Una storia fatta però anche di vittime. Una, un volontario portato via dall'acqua mentre aiutava i soccorritori. Una storia fatta di sicuro di danni. Storia di emergenza che arriva quando i soldi per le emergenze però sono già finiti. A ciascuno il suo. Tipo un gruviera, se fossero tassi ad esempio, le tane dei tassi sono a multipla uscita, ci vengono segnalate la presenza di queste tane, noi interveniamo immediatamente per chiuderle. L'ultima è stata fatta a dicembre 2013. Le nutrie, oppure i tassi, oppure le volpi. Sono state davvero le tane di questi animali a rompere l'argine del Secchia e a contribuire ad un'alluvione che ha portato più di 1000 persone fuori casa, che ha provocato almeno 10 milioni di danni, secondo i calcoli di Confindustria, e ha ferito un territorio sfregiato già dal terremoto. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Una groviera. L'argine del fiume, così viene descritto dagli stessi funzionari dell'AIPO, l'agenzia interregionale per il fiume Po, ma così viene descritto pure dagli abitanti del posto che più volte, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, avevano fatto segnalazioni sulla scarsa manutenzione. Eppure solo il 5 dicembre 2013, quindi solo un mese prima, era stato fatto l'ultimo intervento sul Secchia, eppure proprio il Secchia era stato scelto come fiume da monitorare per uno studio affidato all'AIPO sulla prevenzione. Cosa diceva questo studio? Che fini ha fatto? E poi che cosa succede ad un territorio ferito se i disastri avvengono quando i soldi per le emergenze sono già finiti? Il quadro è cupo, come il fango che ha coperto la bassa, e il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, non lo nasconde, anche se su un punto è chiaro: se davvero, dice ad A ciascuno il suo, l'alluvione fosse colpa delle nutrie, l'Italia tutta avrebbe da tremare. C'è stato il cedimento di un argine, si è riversato in un contesto che non a caso si chiama la bassa, proprio per la sua caratteristica di depressione. Ma è normale che un argine si rompa in un punto rettilineo? La rottura dell'argine è un evento assolutamente non previsto, perché le conseguenze ovviamente sono conseguenze non solo necessariamente catastrofiche, ma che vengono proprio escluse concettualmente anche in termini previsionali. Ecco, quindi è un fatto eccezionale quello che è successo al Secchia. Perché lei immagini, soprattutto in realtà, non solo come la bassa, pensi al Veneto dove i fiumi sono tutti pensili, il cui contenimento è rimesso esclusivamente agli argini. È ovvio che il tema dell'arginatura, della manutenzione, io poi non credo che le cause siano sempre e comunque addebitabili ad una sola circostanza. Si è parlato delle tane degli animali, che indubbiamente molte circostanze rappresentano delle forme di indebolimento delle arginature, ma credo che poi vi sia il concorso di più cause che determinano situazioni sicuramente così drammatiche. Quindi non possono essere state soltanto le tane delle nutrie o delle volpi o dei tassi a provocare la rottura di un argine? Non sposerei in maniera così manichea e a prioristica una tesi piuttosto che un'altra, e credo sia importante, come è stato preannunciato, che si faccia una seria verifica. Quello che però fino adesso si può dire è che quantomeno c'è stato, come diceva lei, un concorso di elementi, quindi se fossero solo le tane degli animali allora dovremmo preoccuparci veramente, perché queste situazioni ci sono in moltissime situazioni. Sicuramente sono degli elementi che contribuiscono ad indebolire delle strutture, ma evidentemente c'è qualcosa che non va nelle strutture stesse. In che tipo di strutture, prefetto? In che senso? Le arginature, che tipo di consistenza hanno, che tipo di manutenzione hanno avuto nel tempo, ecco. Forse quelle prime analisi sulla responsabilità delle tane degli animali hanno, diciamo, forse indispettito un po' la popolazione. Forse è stato un errore. Giustamente, perché è ovvio che le popolazioni, soprattutto chi vive a ridosso dei fiumi, ha meglio di altri la capacità di monitorare la situazione. Certe affermazioni che poi suonano molto spesso come giustificative diventano in qualche modo irrispettose. Le persone che hanno 2 metri di acqua in casa, tutto quello che in qualche modo loro percepiscono a torto o a ragione come un tentativo di giustificare, un tentativo di allontanare da sé le responsabilità, ovviamente nel momento in cui vivono questa condizione di disagio sono ulteriormente poco sopportabili. C'è un'altra difficoltà, che è una difficoltà di tipo economico. Ha detto i soldi per le emergenze sono finiti. Il fondo per le emergenze si è esaurito. Ho anche soggiunto che il fondo per le emergenze poi viene necessariamente rifinanziato, peraltro la legge lo prevede espressamente, ci sono 2 sistemi di rifinanziamento, il taglio delle spese o l'aumento delle accise. Quando io ho detto che il fondo era finito, non è per dire che non ci sarà un intervento a sostegno di queste popolazioni. È proprio per sottolineare che ritenevo assolutamente inadeguato anche in partenza quel fondo, perché purtroppo nel nostro paese le emergenze si susseguono nel tempo e quindi dovrebbe essere almeno il doppio quel fondo. E quindi avremo bisogno, di fondi un pochettino più consistenti. Il problema grosso è che non fanno manutenzione all'interno dell'alveo dell'argine, ci sono tutte le piante. Voi che abitate vicino al fiume, lo stato dell'argine vi preoccupa? Un po' sì, anche se non l'aveva mai rotto, non era mai successo niente, non c'è abbastanza attenzione, cioè il fatto che taglino l'erba e poi ogni tanto facciano una potatura delle piante all'interno non vuol dire che facciano manutenzione. E hanno fatto molte denunce per questa incuria, per questa poca attenzione, però non è mai stato fatto niente, che sono state delle lamentele che non hanno avuto seguito. Le lamentele degli abitanti di Bonporto e Bastiglia nella Modenese le abbiamo girate direttamente all'AIPO e al suo direttore Luigi Fortunato, che con Radio 24 tra l'altro dice: non ho mai pensato fosse solo colpa di una nutria. È stata chiesta a voi dell'AIPO una audizione in regione, accetterete, la farete? Certo, siamo a disposizione. L'audizione in un consiglio regionale è un dovere, prima ancora che una cosa che facciamo con senso di responsabilità per rispondere, mi pare, correttamente a quello che... Sicuramente quello che vi viene chiesto è la ricostruzione di quello che è successo. Se la posizione della regione è quella di affidare la ricostruzione a un gruppo di universitari che il presidente della regione intende incaricare, quello che noi possiamo dire è quello che al limite secondo noi potrà... Certo, secondo la vostra... Certo, senza dubbio. Certo, sulle cause lascerei parlare loro prima. Ci risulta, è stato segnalato anche da una consigliere regionale, che proprio sul Secchia fosse stato fatto, affidato a voi, uno studio, esatto? Nel 2004 ci fu un lavoro fatto assieme all'autorità di bacino e fu fatto un progetto preliminare che fu elaborato all'interno di AIPO, sì. So che esiste di sicuro un elaborato preliminare che riguarda l'adeguamento della cassa del Secchia, l'ipotesi di adeguarla alla piena massima di riferimento, per capirci, e l'autorità di bacino nel 2004 fece una situazione, uno studio abbastanza aggiornato e importante. Certo, ma che lei però sappia aveva avuto un seguito, cioè questi studi qui hanno poi un'interfaccia pratico. Questo dipende esclusivamente dalla possibilità poi di avere dei finanziamenti. In sostanza questi studi avrebbero anche segnalato il tipo di opere che sarebbe stato necessario fare per la zona intorno al Secchia, intorno comunque al Modenese, ma se non ci sono dei finanziamenti significativi, certo, non è possibile metterli in pratica e non è stato possibile realizzarle, giusto? Se non molto parzialmente. Ecco, direttore, gli abitanti della zona segnalano di aver più volte nel tempo segnalato problemi con gli argini, cioè di manutenzione degli argini del Secchia. Noi interveniamo annualmente con cicli di manutenzione che sono riferiti alle opere idrauliche, quindi noi teniamo pulite le difese, le arginature. Gli abitanti segnalano spesso la presenza di alberature. Su queste cose qui noi siamo in grado di intervenire in maniera non regolare in relazione alle risorse che ci sono. Dipende dai finanziamenti. Gli argini sono liberi da qualsiasi cosa. Questo non impedisce, non esclude un rischio residuo di criticità arginale, perché è un manufatto. Certo. Come tutte le cose costruite può avere o vizi occulti o situazioni di degrado, che ha parlato tanto di questi benedetti animali che fanno le tane, che è vero, può essere una concausa. Una concausa insieme ad altre cause. Valuteranno i quattro saggi. Il problema delle alberature in aria è una cosa molto più impegnativa e anche più complessa, perché c'entrano problemi anche di carattere ambientale, c'entrano problemi anche di tutela dei valori naturali. Ma secondo lei questa può essere anche una componente di quanto successo? Non lo so valutare, se fosse una componente sarebbe abbastanza proprio singolare. Però eravate preoccupati per il Secchia? Secchia e Panaro sono due osservati speciali, non c'è dubbio. Il nodo idraulico di Modena è una situazione di rischio, ma era una situazione di forte rischio, ora un po' meno. Però se non ci sono i finanziamenti non si riescono a fare di queste opere, diciamo, più profonde che servono, giusto? Appunto. Quanto servirebbe per il nodo di Modena? Allora, io credo che ci sia una valutazione dell'autorità di bacino che parla di 50 milioni di euro per la sistemazione delle arginature. C'è una nostra valutazione che parla per l'adeguamento della cassa, se non vado errato, attorno a una ventina di milioni di euro. Quindi finché non ci saranno questi finanziamenti che potranno dare il via a questo tipo di opere, il rischio di alluvione in quella zona resterà. Attualmente siamo ad un livello di rischio che fa presumere che possano accadere cose di questo tipo. Però sia chiaro, noi a Natale eravamo in servizio di piena. Stavolta però è andato qualcosa storto e l'argine si è rotto. Esattamente come il 19 di gennaio, domenica 19 di gennaio, noi eravamo in servizio di piena. Si è rotto inaspettatamente un argine che non avrebbe dovuto rompersi, sono io il primo a dirlo. I primi ad essere sorpresi siamo noi, perché per noi quell'argine era a posto, era stato manutenuto. Forse è stato un po', non so se dire affrettato, ma insomma è una componente indicare soltanto nelle tane degli animali la responsabilità. Ecco, un altro, mi scusi, tutto causato dai media. Non abbiamo mai detto che forse è pittoresco l'idea della tana di animale, che è un problema endemico, Però forse non unico. Abbiamo elencato una serie di concause possibili. Quello delle tane era una delle cause, non c'è assolutamente nulla da ridere, è un problema anche quello. È chiaro che qualche tana di nutria non butta giù un argine, lo capisco perfino io, ma vi assicuro che ci sono situazioni in cui anche questa componente contribuisce. Come componente di una pluralità, certo, di elementi. Certo, non abbiamo mai detto che è stato signora nutria a fare, ma per carità. Se avete segnalazioni o se volete commentare questa e tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure sul blog Storiacce. Su Twitter ci trovate invece sull'account Raf Calandra. Questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, può essere riascoltata dal sito radio24.it. Ciao, a presto!